Trattato di Yomah, stiamo studiando l'ultimo capitolo della Masechet, della Mishnah di Yomah, e siamo arrivati alla Mishnah Gimel, la terza Mishnah. Come abbiamo visto già l'altra volta, questo è il capitolo in cui si trattano le leggi, le norme riguardanti il giorno del Kippur, che appunto riguardano tutti quanti, non solamente il Beit HaMikdash, non solamente il Kohen Gadol, le fonti appunto legate a come gestiamo noi persone normali il giorno del Kippur. Abbiamo parlato nelle Mishnayot precedenti a questa riguardo il divieto, quali sono i divieti del giorno di Kippur, e in particolare abbiamo parlato del volume dal quale, volume minimo diciamo per rientrare nel divieto di mangiare, cioè il divieto riguarda qualsiasi volume, ma entro un certo volume non scatta, diciamo così, il reato, per così dire. E abbiamo visto questo. Ora la Mishnah affronta un altro problema che riguarda anche i divieti specifici, se ce ne sono diversi o se sono inclusi in un unico divieto, e quindi ci sarebbe una differenza riguardo a come si tratta la situazione. Ora vediamo nello specifico, è molto semplice. La Mishnah introduce una situazione e poi dice come si tratta questa situazione. Achal veshatà, se una persona avesse mangiato e bevuto durante Kippur. Quindi sono due divieti, perché noi abbiamo detto un divieto è mangiare, un altro divieto è bere, ok? Sembra che siano due divieti. Però lì ha fatto queste due cose, behe'elem echad. Behe'elem echad vuol dire in un'unica insaputa. Cioè non l'ha fatto appositamente perché voleva profanare il giorno di Kippur. Si è, per esempio, dimenticato che oggi è Kippur, ne'elam mimenu, e stava all'insaputa, si trovava all'insaputa del fatto che oggi è Kippur, per esempio. E in quel momento di non chiarezza ha sia mangiato che bevuto. E l'emechad è importante, è nello stesso momento di insaputa. È importante, cioè nel senso non ha mangiato, poi si è ricordato che è Kippur, poi si è di nuovo dimenticato e ha bevuto. Contemporaneamente, anche se fosse passato tempo, però nel stesso contesto di dimenticato, di incoscienza. La realizzazione che Kippur è di un unico momento. Esattamente. Esattamente. Allora in quel caso la Mishnah dice Eino chayav ela chatat achat, non è obbligato a portare se non che un solo korban chatat. Che vuol dire? Vuol dire quando una persona mangia durante Kippur appositamente perché non vuole rispettare il Kippur, allora c'è la pena del karet, che abbiamo detto anche già l'altra volta. Mentre invece se la persona trasgredisce il Kippur ma non appositamente, perché, come abbiamo detto, per esempio, si è dimenticato che oggi è Kippur, comunque serve una forma di espiazione di Teshuvah, meno grave, chiaramente meno forte, e si esprime, quando c'è il Beit HaMikdash, nel fatto che lui deve portare un Korban Chatat, un sacrificio di espiazione per questo errore. Ok? Allora, il mangiare e il bere in un unico momento di incoscienza, di insaputa, non deve portare che un korban chatat, perché rientrano sotto la stessa voce del divieto. Ve innitem et nafshotechem, voi affliggerete voi stessi. L'afflizione include entrambe queste cose, quindi non essendo due divieti diversi, c'è solamente l'obbligo di un chatat. Ok? Questo se lo ha fatto in un unico momento di incoscienza. Ma se fossero più momenti, allora sono considerati diversi peccati. Corban ciascuno, esattamente. Però il contrasto che la Mishnah vuole fare è con la seguente situazione. E qual è? Leggiamo. Achal, se la persona avesse mangiato durante Kippur, e anche un'altra cosa che non è bere, non rientra nell'afflizione, è un altro divieto, cioè, benissimo, ve'asa melacha, e ha fatto un'opera, melachat, come le melachot che sono vietate di Shabbat, sono vietate anche di Kippur. Okay? Per esempio, ha preso la macchina di Kippur e ha anche mangiato. dimenticandosi che oggi è Kippur, stessa situazione, solo che cambia l'atto che ha fatto. Ha mangiato, che è un divieto che rientra sotto il l'affliggerete la vostra anima, la vostra, vostre anime, voi stessi. Ha fatto una melachah che rientra sotto un altro divieto. Allora, anche se l'ha fatto in un unico momento di incoscienza, essendo due divieti diversi, ci sono due korbanot da portare. Chayav è obbligato a portare shtei chataot, due sacrifici di espiazione. Perché? Perché appunto, come dicevo, sono due divieti diversi. Quindi sono categorie di il Corban per ciascuna categoria di trasgressione, diciamo. Esattamente, esattamente. E la categoria di trasgressione dipende dal divieto come è detto nella Torah. Perché nella Torah Certo, c'è un verso secondo in cui si l'indicazione di Torah. parla dell'affliggerete, un altro verso in cui si parla L'azione. della melachah. Ovviamente. Bechol melachah lo ta'asu be'etzem hayom hazeh, che non si può fare alcuna melachah in questo giorno di Kippur. Ora, terza situazione che la Mishnah affronta. Se una persona avesse mangiato durante Kippur, achal o chalim dei cibi sheinam reuyin la'achila, che non sono commestibili, ha mangiato qualcosa che normalmente non si mangia. Scendere chi. Esattamente. Per esempio, prima dice in generale, ha mangiato qualcosa che non è commestibile, come per esempio i commentatori dicono delle erbe. Amare che magari nessun uomo mangia normalmente. Poi fa anche qualche esempio. Questo riguardo cibo, e poi fa qualche esempio riguardo bevande, oppure shatam mashkim, oppure se avesse bevuto qualche bevanda, sheinan reuyin lishtiyah, che non sono normalmente bevibili, come per esempio se la persona avesse preso un bicchiere e bevuto dell'aceto. Per dire, non è normale, non è una cosa che si fa. E appunto adesso fa due eventi, esempi specifici. Shatah, tzir o murias. Tzir è il liquido che fuoriesce da pesce che si mette sotto sale. Metti pesce sotto sale, prendi quel liquido e bevilo. Assolutamente, nessuno lo fa, non è una cosa normale. Oppure Murias è una cosa simile, ma per i pesci che non sono sotto sale, sono sott'olio, sono messi a marinare, diciamo. E La anche quello, carda, la kerda, la conosci? certo. Allora, anche questo non è una cosa che si beve. In tutti questi casi, cioè che ha mangiato o bevuto elementi che non sono normalmente mangiati o bevuti, Patur è esente dalla pena del karet. Cioè, se lui li ha mangiati appositamente perché vuole mangiare di Kippur, eccetera, comunque non rientra nella pena del karet, perché questo non si Anche se chiama mangiare. appositamente, Sì. anche se appositamente, questo è Qui importante. stiamo parlando non più dell'appositamente o no, stiamo parlando della definizione di mangiare. Questo è non commestire, non mangiare. Esattamente, stiamo dicendo è vietato Si è mangiare, ma se tu sbagliato, mangi. quasi si è sbagliato. Non è più importante se l'ha No, fatto con no, parliamo che intenzione non ha sbagliato, ha voluto farlo. o meno. Anche se ha voluto farlo, Ok? dice. Ho capito bene? Sì, Anche se ha voluto farlo. anche Non se c'è più la perché non distinzione. rientra nel fatto del mangiare, nel Esattamente. mangiato Qui siamo. Sì, ho sia nel. capito, Mi ero qui la sbagliato. definizione Sì. è cosa è il cibo. Quindi Cosa vuol dire l'aceto lo mangiare? bevo, ne bevo un Quando mangio sorso, ottiene una comunque non passo soddisfazione, niente, invece non come se vado non avessi incontro a nulla. bevuto. Attenzione, Quando attenzione. mangi una cosa che non si può mangiare, ottieni una soddisfazione nel mangiare, è quella che è Allora, quello che vietata. stiamo dicendo qui Gesù dice che praticamente se è c'è che roba che non si può mangiare, non fai perché. quando la Torah dice non si può mangiare durante Kippur, se uno mangia un pezzo di legno, Esatto, non rientra nel divieto. hai capito? Sì, certo. Quindi, Sei no. già afflitto da solo. Quindi quello che stiamo dicendo è esente, però non c'è scritto è permesso. È una differenza. Vuol dire è comunque vietato. I maestri vietano anche bere un bicchiere di aceto durante Kippur. C'è caretto, non c'è Però caretto, è no, esente non dalla c'è pena del caretto, careta, anche se l'ha anzi, fatto volutamente, perché non rientra nel concetto di mangiare è e sbagliato, ma non c'è la pena. Sì, ma perché bere. questa Non c'è la pena cosa di si può careta, eh? domandare? Perché uno va a mangiare un pezzo di legno, mangiare una cosa? Vabbè, sono C'è, esempi. no, è secondo le circostanze, uno può essere un prigioniero in una cella, una una galera che mangia, gli fanno mangiare delle cose che non si possono nemmeno mangiare. È per questo che c'è il oppure se mi chiedono da 100 non d'acqua. Siamo nel... Ok, signori, scusate se vi interrompo, andiamo alla prossima Mishnah. Mishnah Daled parla dei bambini, come ci dobbiamo comportare con i bambini durante Kippur. La Mishnah dice: Hatinokot, i bambini. Oggi in ebraico moderno per dire tinok si intende un neonato, però nel linguaggio della Mishnah tinok vuol dire bambino. Hatinokot, riguardante il comportamento dei bambini, allora en me'annin otam biyom ha-Kippurim, non si fanno affliggere loro come gli adulti durante Kippur, ovvero non siamo obbligati ad farli evitare di mangiare ai bambini. E secondo Rambam vuol dire invece siamo obbligati a non farli digiunare. Ci sono due modi di leggere questo. O non siamo obbligati a fargli evitare il cibo, oppure siamo obbligati a dargli il cibo. Solo Rambam dice questa. Rambam spiega così. Sì. Comunque la halakha è che un bambino non digiuna Kippur. Certo. Okay, dipende come legge la Mishnah, però comunque è questo. Però, dice la Mishnah, aval mechanchim otam, gli si, diciamo, si, gli si educa letteralmente, cioè gli si fa abituare a fare delle ore di digiuno, ognuno secondo la sua età. E dice quando si inizia a fare questa cosa? Kodem shana ve kodem shnataim, un anno o due anni prima che rientrano nell'obbligo, quindi diciamo per il bambino che a 13 anni rientra nell'obbligo, a 11 o a 12 anni, in base alla forza, la possibilità di quel bambino specifico. Ok? Scusa, prima della bar mitzvah, perché si considera che dopo che ha fatto la bar mitzvah va nell'obbligo di fare il kippur? Assolutamente. Prima no. Tutti gli obblighi, della Torah sono validi dal momento che la bambina fa 12 anni, bat mitzvah. Bat mitzvah vuol dire obbligata a fare le mitzvot. Oppure bar mitzvah, a 13 anni obbligato a fare le mitzvot. Ok? Bene. La Gemara dice perché la Mishnah fa due esempi, un anno o due anni? Dice in base alla forza del bambino, dipende anche dalla situazione. Che poi abituarli gradualmente nelle ore è quasi normale, senza nemmeno sapere della Mishnah. Però i nostri nonni sapevano della Mishnah, c'è scritto nell'Alaha e nello Shulchan Aruch. Non era una... Certo, no, lo so. Anche la mia non era... Esatto, questo dice. Mishnahei. Ora entriamo in alcune Mishnayot che parlano di casi particolari di disagio e casi fuori dalla norma. Primo caso, caso voluto, cioè Ubara. Ubara è una donna incinta. Sheheriha. Se una donna incinta ha sentito l'odore di un cibo durante Kippur e ha avuto la voglia di assaggiare quel cibo, e sappiamo che questa è una cosa molto importante, perché se dovessimo rifiutare di dare alla donna incinta ciò che ha un forte desiderio, potrebbe la cosa incidere sul... sulla sua salute, sulla salute del feto. Allora la Mishnah dice: ma achilin ota, glielo si dà da mangiare ad shetashiv nafsha, finché si sente, finché torna a sé, letteralmente sazia. Non sazia, soddisfatto, non il desiderio. Soddisfatto il desiderio, non è diverso da sazio. Non finché è sazia dal cibo come da un pasto, finché si è calmata, finché non ha più quella voglia pazza. Ok? Quindi sta bene e non gli serve più, allora basta. Torna in se stessa. Esattamente. Acetashiv nafsha. Perché? Perché ovviamente qui consideriamo questo essere un caso di pikuach nefesh. Pikuach nefesh vuol dire un caso in cui bisogna agire anche contro la regola per mantenere la vita, perché la consideriamo un caso di vita e morte. E tutte le mitzvot della Torah sono respinte quando c'è una questione di vita o morte, a parte tre cose, cioè Avodah Zarah, idolatria, Shefichut Damim, cioè spargimento di sangue, cosa di spargimento di sangue, uccidere, uccide, omicidio, e Gilui Arayot, atti sessuali non permessi. Per queste tre cose una persona è dovuta, è obbligata anche a non badare alla propria vita. Ma per tutte le reste, le altre cose della Torah, prima la vita e poi la mitzvah. E questo rientra in quella regola. Nonostante ciò, la Gemara dice che prima di darle da mangiare bisogna starle vicino, andare e sussurrarle nell'orecchio: ti ricordi che oggi è Kippur? Perché, siccome anche il ricordo di Kippur è molto forte per le persone, potrebbe quello già farle cambiare idea, il desiderio potrebbe sparire per il cibo in quel momento. Però se quello non l'aiuta, allora gli si dà da mangiare, si cerca di non rientrare nel volume minimo del divieto che abbiamo spiegato l'altra volta, forse meno di quel volume l'aiuterà a stare bene. Se però ancora non sta bene, ovviamente abbiamo detto epikuach nefesh, una questione di vita o morte, quindi può mangiare, gli si dà da mangiare anche di più. Ok? Questo per ciò che riguarda la persona che... La donna incinta. La donna incinta, benissimo. Secondo caso nella Mishnah, cholè. Cholè, una persona che sta male, un malato. Allora, deve mangiare o non deve mangiare? La Mishnah dice, machilin oto, gli si dà da mangiare al pibekim. Al pibekim vuol dire secondo il consiglio degli esperti, in altre parole dei medici. Se il medico, che sa cos'è Kippur e conosce la situazione del malato, dice ce la può fare senza mangiare, non è un problema, allora non può mangiare. Se il medico invece dice no, ha bisogno di mangiare, allora gli si dà da mangiare. Se però non c'è la possibilità di consultare gli esperti, cioè il medico, im en shambikim, se non c'è il medico, l'esperto, ma chilim oto, gli si dà da mangiare al pi atzmo, secondo le indicazioni del malato stesso. Se lui dice ho bisogno, noi diamo retta e gli diamo da mangiare. Ok? Fino a che punto? Ad sheyomar dai, finché dice basta. Finché dice, ok, non ho più bisogno, non siamo obbligati a dare a mangiare più di quanto lui considera, che, ovviamente nella mancanza del consiglio dell'esperto. La Gemara dice ancora di più, quando spiega questa Mishnah, la Gemara dice che anche se ci fossero degli esperti, dei medici, che dicono che non ha bisogno di mangiare, e il malato stesso dice, ho bisogno, chi seguiamo? Lui. Seguiamo lui, il malato. Al piazmo. In quel caso non consideriamo le parole dei medici, perché la persona può sapere meglio di qualsiasi altra, la persona stessa può sapere meglio di qualsiasi altra persona, chiaramente. Come dici, Piero? I medici hanno già mangiato. I medici hanno già mangiato? Dipende, se sono ebrei, anche loro non hanno mangiato. Se è un medico ebreo, anche lui di Kippur non ha mangiato. Non studia la fa il grande. Ora, qui abbiamo parlato di un malato in generale che può essere un malato di varie gradature, diciamo così, di varie gravità, o meno grave o più grave, eccetera. Ora parliamo di un caso specifico. Nella Mishnah Vav, la Mishnah dice Mi she'achazo balmos. Bulmos è una malattia causata proprio, una debolezza, un malore causata proprio dalla fame. Ok, sapete? Balmos è una malattia. Bulmos è un non so come si chiama, si traduce letteralmente, ma quello che si intende è un malore causato dalla fame. Sì. No? La fame causa diversi malori. Allora potrebbe essere uno che perde la vista per la fame o altre cose che, come sappiamo da molte storie. Pressione, eccetera. E ovviamente, se non si tratta, anche questo lo consideriamo un caso di pikuach nefesh, cioè di vita o morte, una cosa importante. Di conseguenza, non solo gli si dà da mangiare, e questo riguarda non solamente Kippur, però ora vediamo. Machilin oto afilu devarim temeim, gli si dà da mangiare persino degli cibi che sono impuri, cioè non kasher. Non badiamo adesso alla kasherut. Dobbiamo salvare la vita di questa persona, quindi questa è già una cosa che va oltre Kippur. Kippur, ma anche in un altro giorno, una persona è malata a causa della fame e bisogna dargli un alimento, gli si dà l'alimento che è possibile dargli quando è necessario. Allora scusa, questo è quasi una cosa quasi di pericolo, allora non è uno stato catturale. Sì. Cioè un malore vero causato dalla fame, non una semplice fame. Una fame che ha portato a una situazione di... Allora, in quel caso, se proprio c'è un pericolo, addirittura puoi anche mangiare una cosa non cacciata. Assolutamente sì. Non lo sapevo. Come dicevamo... Beh, ma è proprio una cosa... Sì, però se ci... No, io non ho, svieni, non pensavo. Aspetta. Svieni, ma ci resta un pericolo quasi di me. Ah, ma non mangi... Solo dico una frase sola. Così come è permesso mangiare di Kippur per una questione di pericolo... Come è respinto il Kippur, è respinto anche il Kasher. Stessa cosa. Sì. Potrebbe essere non il mangiare, ma una medicina che si sa essere fatta con medicina qualcosa. È diverso, no, è già meno problematico. No, fuori da Kippur. Dico, una medicina anch'io sto parlando fuori da... fatte con prodotti veramente talenti. No, allora, Alberto, anch'io sto dicendo fuori da Kippur. È diverso una medicina da un cibo vero e proprio. Qui parliamo proprio di alimentazione. Alimento vero e proprio. Cioè un pezzo di prosciutto, sì, ok? Non stiamo parlando di una medicina che ha una gelatina che deriva da... Sì. Questo già non è cibo. Vi ricordate che la Mishnah ha detto chi mangia qualcosa che non è commestibile non è passibile perché? Perché non è cibo. Non rientra necessariamente nella kashrut. Quando parliamo di medicina, questa è una parentesi. Integratore alimentare è già diverso perché è più cibo che medicina. Ma qui parliamo proprio di cibo vero e proprio. Che sarebbe più grave se non fosse malata e la mangerebbe, certo. Chiaramente. Invece stiamo parlando di un caso in cui deve mangiare, gli si dà da mangiare, anche cose assolutamente taref, non kasher. Ad sheye oru einav, finché gli si illuminano gli occhi. Vuol dire, parliamo di quella malattia che porta addirittura la fame al non vedere. Ho capito. Finché non rivede, gli si dà da mangiare qualsiasi cosa. Scusa Piero, dimmi. Sì, pasticche è un'altra cosa. Non stiamo parlando di pasticche. Signori, stiamo parlando di un caso di emergenza. Esatto. Ok? Allora lì la Mishnah dice gli si dà da mangiare di tutto, qualsiasi cosa è necessaria. Torniamo al rischio di vita. Rischio di vita? Pikuach nefesh si chiama, rischio di vita. Non si aspetta finché apre il fornaio kasher, subito gli si dà quello che è disponibile. Un altro caso di possibile pericolo che la Mishnah espone ora è Mishe Neshacho Kelev Shote. Se la persona è stata morsa da un cane che però è cane rabbioso, quindi c'è il pericolo. En machilin oto mechatzar kavecelo. Esisteva un modo di una medicina popolare che si uccideva il cane. Nel caso un cane rabbioso avesse morso una persona, allora si ammazzava il cane e si prendeva il suo fegato e si dava da mangiare il fegato alla persona. Era considerato questo un antidoto, ok? Suona strano, mi sembra il limite della stregoneria. Funziona? Non lo so se funziona o no, però la Mishnah dice non si può fare. La Mishnah lo dice proprio perché non è considerata una medicina, una cura, riconosciuta. La Mishnah proprio questo sta dicendo, una cura che è popolare ma non riconosciuta e quindi non lo si fa perché non è kasher. Questo è il motivo. In altre parole, se gli si vuole dare qualcosa che non è kasher per farlo tornare alle sue forze, allora assolutamente sì, se è in pericolo, come abbiamo detto nella voce precedente, ma se è perché la vicina di casa, la nonna, ha detto bisogna dare questo e quello, e comunque c'è disponibile qualcos'altro, gli si dà qualcos'altro, perché una medicina che non è confermata, non è, come dire, riconosciuta, non respinge la kasherut. Scusa, ti interrompo. Sì. Ma qui non stiamo solo a Kippur? No, ormai siamo usciti fuori da Kippur, perché siamo partiti dal fatto di dare da mangiare nel caso di Pikuach Nefesh, infatti l'ho specificato prima, che qui ormai stiamo parlando anche al di là di Kippur. Cioè, nonostante siamo ancora a Yomah, però siamo fuori. Sì, ci sono perché... già proiezioni fuori da Kippur. No, spesso... Allora, nella Gemara è chiaro che si va su tutti i temi senza badare al trattato, però anche nei trattati della Mishnah spesso si fanno dei paragoni con situazioni simili, anche se non direttamente sotto la voce, diciamo in questo caso Yomah, Kippur. Sì. Per fare anche un esempio estremo, nel trattato di Pesachim c'è un capitolo intitolato Makom Shenahagu, il luogo in cui usano, Minhag, no? In cui usano, per esempio, inizia con... parlando del Minhag, che ci sono luoghi in cui si usa non lavorare la vigilia di Pesach. Allora dice, laddove si usa così è vietato, cioè considerata l'achah. Invece laddove si usa lavorare la vigilia di Pesach, fino a una certa ora ovviamente, allora è permesso. E poi c'è tutta una serie di Mishnayot che sempre aprono con la frase Makom Shenagu, il luogo in cui si usa, che poi non c'entrano più con Pesach, perché è come se si legasse... Da un concetto si passa a un altro, anche nella Mishnah esiste questo, e questo è quello che stiamo facendo qui, un altro esempio. Però poi torneremo a Kippur in questo capitolo. Riguardo a questa cosa del cane rabbioso, c'è scritto nella Mishnah, Rabbi Mattia ben Harash Matir, Rabbi Mattia ben Harash, un grande maestro della Mishnah, che tra l'altro aveva una yeshiva, dove, in quale città? Qui a Roma. Una yeshiva importante, dice, invece è permesso dargli da mangiare dal fegato del cane rabbioso, perché ci sono due opinioni, perché lui lo permette. Secondo alcuni, Rabbi Mattia ben Harash è dell'opinione che quella è una cura confermata, una cura accettabile. Voglio dire, ci sono le prove che questo... Aspetta, non lo so, aspetta. Chi l'ha tirata fuori? Attendo un minuto. C'è chi dice che Rabbi Mattia ben Harash è dell'opinione che funziona, sì, e quindi lo permette. Altri dicono no. Anche lui sa che non funziona, che è una cosa così superstiziosa o qualsiasi cosa che vuoi chiamarla. Però, perché lo permette? Per un motivo psicologico. Se la persona crede che questo lo aiuta, a volte fa meglio l'effetto placebo. Ecco, allora dice, per questo è permesso addirittura, perché? Perché stiamo parlando comunque di un pericolo. Allora lo permette per l'effetto sulla persona, non perché crede che è una cosa di per sé, esattamente. E visto che abbiamo ricordato Rabbi Mattia ben Harash, lo citiamo per un'altra halakha che lui ha insegnato, che riguarda sempre il caso di malore o pericolo. Nello specifico lui parlava dello Shabbat e dice Ve'od amar Rabbi Mattia ben Harash, inoltre disse Rabbi Mattia ben Harash, Hachoshesh bigrono, oppure Hachoshesh befiv, ci sono due versioni, o chi sta male nella bocca, ha un malore nella bocca. C'è chi parla in altre versioni della Mishnah di un malore dei denti o un malore della gola, ci sono diverse versioni. In ogni caso, lui dice, Rabbi Mattia ben Harash, Metilin betocho sam beShabbat. Sam vuol dire una formula di medicina. Gli si mette la medicina in bocca anche di Shabbat. Mi penneisce un safek nefashot, perché si tratta di un caso di safek. Safek vuol dire dubbio. Si tratta di un dubbio di nefashot. Nefashot vuol dire caso di vita o morte. Visto che è un dubbio, anche se non è sicuro, comunque si va a fare una cosa che normalmente non si fa di Shabbat. Perché il sam, la medicina, è inteso nel senso che si prendono delle erbe, si preparano, eccetera, tutte cose che di Shabbat non si possono fare, che in realtà l'Halakha normalmente dice che non si usa la medicina di Shabbat proprio per non arrivare a fare tutte queste melachot. E qui in questo caso dice lo si fa per il dubbio che sia un caso di pikuach nefesh, cioè di vita o morte, di pericolo. Di sabato non si prende la medicina per il dubbio... No, non si prepara. Ah, ecco. Non apriamo adesso questa parentesi. Mipneshu safek nefashot, perché è un dubbio di rientrare nel pericolo. E Rabbi Matia ben Harash dice, Bechol safek nefashot docheta shabbat. Ogni caso di dubbio di pericolo, non solamente quello di pericolo certo, anche quello di pericolo dubbio, respinge lo Shabbat. Per questo motivo abbiamo citato Rabbi Matia ben Harash, per aggiungere anche questa cosa, che anche per il dubbio del nefashot, cioè del pericolo, si rientra in questa cosa, si rientra in questo concetto. Ora, poi torniamo alla questione della medicina. Mishnah Zain, settima Mishnah. La Mishnah dice, Mi shenafla alav mapolet. Stiamo continuando a parlare di cose che sono pericolo, che per le quali si respinge lo Shabbat, o il Moed o il Kippur, e che non sono strettamente legate solamente al Kippur. Questo continuiamo su questa scia per il momento. Mi shenafla alav mapolet, se cade su qualcuno la caduta di un muro, di una valanga, qualcosa che non si vede la persona. È ovviamente un caso di pericolo. Allora, se non ci fosse dubbio, se noi avessimo visto il problema, tempo reale, è chiaro che non c'è nessun divieto che ci blocca e dobbiamo far di tutto per tirarla fuori. Però, se il caso è safek husham, safek einosham, se è un caso di dubbio, non si sa se la persona è lì presente o abbiamo motivo di pensare forse quella persona era lì, ma non abbiamo la sicurezza. Safek einosham, potrebbe darsi che non si trova lì. Oppure, anche se ci si dovesse trovare, safek chai, safek met, potrebbe essere che sia vivo, però potrebbe essere che sia già morto purtroppo. Safek nochri, safek Israel, non sappiamo se è non ebreo o se è ebreo. Mefakhim alav etagal, nonostante tutti questi dubbi che ci potessero essere, bisogna aprire, scavare, cioè fare tutto ciò che è necessario per aprire il gal sarebbe il mucchio del causato dalla caduta del muro, cioè nel caso specifico, però ovviamente è applicato anche ad altri casi. Quindi si inizia a profanare lo Shabbat, o il Moed, o il Kippur, che sia, anche alla luce di tutti i dubbi che ci sono. Non fa niente, bisogna profanare per la possibilità di salvare la vita. Se Metza'uhu Chai, se lo trovarono vivo, vuol dire scavarono abbastanza per capire che è vivo, ma ancora non l'hanno tirato fuori, allora si continua a scavare finché lo si tira fuori, chiaramente. Mefakhin alav, si continua a togliere il mucchio. Ve'im met, però se hanno trovato, anche se non hanno tirato fuori, ma sono arrivati a capire che è morto, allora yanichuhu, allora lo si lascia lì fino a dopo che finisce lo Shabbat. Perché ormai non è più una cosa di vita e morte. Allora sì, si fa quello che si può fare, si copre, eccetera, però non si tira fuori il cadavere, perché ormai non è più un pericolo, purtroppo non è un pericolo di morte, è proprio morte. Allora lì si può aspettare, no, si può aspettare, e di conseguenza si aspetta che finisce il Shabbat. Si è profanato per arrivare a vedere, si è visto e ci si ferma. Esattamente. Nel caso contrario, che si è profanato per andare a vedere, si è visto vivo, allora si continua a profanare e ovviamente si tira fuori. Anche se non è ebreo in Israele. Esatto. Anche se? Se non è ebreo. Ah, ebreo, sì, sì. Certo. Ora dice, tra l'altro la Gemara parla di, oggi ci sono anche tanti dibattiti sul come definire la morte, eccetera. Però la Gemara parte anche da un punto di vista meno complicato, nel senso se scavano e trovano la sua parte bassa del corpo, cioè i piedi, le gambe, e da lì riescono capiscono che è morto. Non si devono fermare finché non arrivano al volto e per testare, per capire proprio la certezza che davvero è morto. Quindi anche se possono essere, diciamo, 99% sicuri che è morto vedendo le sue gambe, che ovviamente si potrebbe sapere in molti casi, però comunque non ci si ferma, bisogna andare fino ad arrivare al naso, diciamo così. Inoltre dice anche la Gemara che se dovesse essere una tragedia dove tante persone sono rimaste sotto qualcosa e hanno trovato persone sopra morte, devono comunque scavare per forse trovare persone vive, come hanno trovato adesso nell'albergo lì. Stavo facendo proprio questo esempio. Hanno trovato tanti morti, ma poi hanno continuato e hanno visto dentro c'erano anche persone vive. Quindi non è indicativo. Se trovi, comunque poi ti fermi. Se hai la certezza che è defunto, se hai certezza che è defunto, ti devi fermare. Cioè, non hai più il permesso di profanare lo Shabbat. Ma se hai la certezza che è defunto, una dignità al defunto. Cioè, la dignità del defunto è importante, ma non quanto salvare la vita del vivo. Salvare la vita può profanare lo Shabbat. La dignità del defunto non può profanare lo Shabbat. Cioè, prima lo Shabbat. Sì. Esatto, anche se c'è una parentesi, però non è adesso il momento. Lo leggiamo nel trattato di Shabbat. No, la Mishnah ha detto esplicitamente ebreo o non ebreo, Nochri o Israel. Ora torniamo a parlare di Kippur nella Mishnah. La Mishnah dice così: Chatat ve'asham, ve'asham vadai, scusatemi. Il Korban Chatat, cioè una persona. Quando è che porta, è obbligato a portare un sacrificio che si chiama Chatat, sacrificio di espiazione che si chiama Chatat, come abbiamo già detto prima, lo si porta nel caso che la persona ha fatto il peccato non volutamente. Per esempio, nel caso di Kippur, si è dimenticato che è Kippur. Ok? Lì deve portare un Korban Chatat. Oppure, un altro tipo di sacrificio che si chiama Asham Vadai. Asham Vadai vuol dire un tipo di sacrificio che è portato per... Vadai vuol dire sicuro, vuol dire una cosa che la persona ha ammesso di aver fatto volutamente e poi ha fatto teshuva, per esempio ha rubato qualcosa ad un altro. Asham Gezelot, per esempio, si chiama, no? Uno dice, tu mi devi tot soldi. Lui dice, no, non devo niente, ha fatto anche giuramento, non ti devo niente, eccetera. E poi ha ammesso la colpa. Allora una delle cose che deve fare, oltre alla retribuzione, eccetera, è portare un korban che si chiama Asham Vadai. Queste due categorie di korbanot, la Mishnah dice, mechaperin, con il fatto di aver portato il korban, e ovviamente si intende anche che con il cuore ha fatto teshuvah, il korban senza teshuvah non serve a nulla, si è pentito e ha portato il korban, allora mechaperin, c'è un'espiazione totale di quanto è avvenuto. Vuol dire gli viene cancellato il peccato. Per questi due korbanot. In questi due casi. Chatat e Asham Vadai. Chatat e Asham Vadai, come dice la Mishnah. Ah, Asham Vadai. Vedi la Mishnah. Chatat ve Asham Vadai. Queste sono le due categorie. Ve Asham Vadai. Ok. Inoltre c'è anche il Vidui. Come? Ma questo dimmi. Perché a Kippur in generale? Ora vediamo, perché in realtà stiamo tornando a Kippur. Ora vediamo un secondo solo, nella prossima frase. In questi due casi, come dicevo, c'è la Teshuvah e c'è anche il Vidui. La persona confessa il proprio peccato tra sé e sé quando porta il Korban, si appoggia sulla testa del Korban con il proprio peso e fa il Vidui e dice di non tornare più a fare questo peccato mai più, eccetera. Allora questo Korban ha un effetto di Kapara, di espiazione e di perdono. La Torah dice anche venislachlo, gli viene perdonato il peccato. Ok? Questo a differenza di un korban che si chiama, qui non è menzionato, che si chiama Asham Talui, invece di Asham Vadai, cioè l'Asham sicuro per una missione della persona, e invece Asham Talui, che è un korban che la persona porta per il dubbio di aver peccato. Non è neanche lui sicuro. Ok? Per esempio, Kippur, se lui ha mangiato per sbaglio, c'è cioè il Korban Chatat, e viene spiato, come ha detto la Mishnah. Ma se non è sicuro se ha mangiato o no, si è svegliato una settimana dopo Kippur e ha detto, scusa, ma quel giorno forse ho preso il caffè. No, ma forse no, non è sicuro. Allora lì c'è un korban che si chiama Asham Talui, un Asham, un korban relativo a una colpa, che però Talui, Talui vuol dire pende. Pratica pende. È una pendenza. Non è chiaro. Ok? Non è una capara totale. Perché? Per quale motivo non è una capara totale? Perché se poi dopo chiarisce che davvero ha fatto quel peccato, poi ha la sicurezza che ha preso quel caffè il giorno di Kippur, per esempio, no? Se poi gli si chiarisce la cosa, allora deve sempre portare un korban chatat. E lì viene chiarito totalmente il problema. Però lasciamo talui, rimane anche talui, un po' pendente la cosa, la caparà. Ora la Mishnah torna esplicitamente a Kippur e dice, mità, la morte, quando una persona muore, veyom Kippurim, o anche il fatto stesso che passa il giorno di Kippur, ovviamente da vivo, queste due cose, mechaperim, costituiscono un'espiazione dei peccati, im ha-teshuva, qualora ci fosse la teshuva. Cioè il giorno di Kippur funziona come se fosse un korban. Se tu rispetti il Kippur e durante questo giorno fai la teshuva per eventuali peccati commessi in precedenza, allora c'è una kapara totale. Anche la morte, se una persona fa la teshuva e poi muore, sì, sì. La morte stessa è una forma di espiazione. Ora la Mishnah spiega ulteriormente, perché in teoria se una persona fa teshuvah, noi sappiamo che la teshuvah, il ritorno verso Hashem, è un atto del cuore, è un sentimento. Ovviamente oggi non abbiamo il korban, allora è chiaro che non siamo limitati. Comunque la teshuvah è accettata, allora perché serve anche il Kippur? In teoria basterebbe la teshuvah. Allora Mishnah adesso fa un appunto su questa domanda qui, su questa perplessità, senza renderla esplicita, ma risponde a questo nelle prossime righe. La Mishnah dice, la teshuvah di per sé, senza la morte, senza il Kippur, mechaperet alaverot kalot. La teshuvah di per sé effettua una kapara, una espiazione, un perdono, per ciò che riguarda le averot, le trasgressioni kalot, leggere. Cioè, cosa vuol dire leggere? Ve alla se ve allot a se, vuol dire alla se per mitzvot a se, positive. Cose che bisogna fare che non ha fatto, oppure lot a se, cose che non bisogna fare che ha fatto. E qui non stiamo parlando di tutte le mitzvot negative, solo quelle legate a un atto, la Gemara spiega, a un atto positivo. Invece quelle che sono vietate senza essere legate a un atto positivo sono considerate invece quelle non leggere, sono considerate quelle della prossima voce. Ve'ala chamurot, e per ciò che riguarda le mitzvot invece rigorose, considerate più rigorose, la teshuvah ci deve essere, però hitola, la teshuvah pende, di nuovo questa parola. Adshe yavo yom ha-kippurim v'chaper, finché non arriva il Kippur, allora in quel punto la caparà diventa completa. Allora se una persona volutamente ha trasgredito una delle mitzvot negative, senza dimenticarsi che è vietato, senza dimenticarsi che il contesto forse era vietato, l'ha fatto proprio con la piena coscienza. Io questo lo voglio fare, ed è una cosa che è vietata nel senso, c'è lotta a sé, non si può fare. Allora lì, quando lui fa la teshuvah, c'è una forma di espiazione, ma questa viene poi confermata quando arriva il giorno di Kippur. Ok? Quindi lungo l'anno, se uno ha queste occasioni in cui si comporta in questo modo, fa la teshuvah che si chiude definitivamente il cerchio su Kippur. Esatto, esatto. E la Gemara fa delle osservazioni specifiche anche su questo. Però procediamo, la Mishnah procede con una halakha molto importante nell'ultima Mishnah di questo capitolo e di tutto il trattato di Yomah che adesso concludiamo. La Mishnah dice: Ha Omer, Una persona che dicesse Echetà ve'ashuv, pecco ma poi farò teshuva, Echetà ve'ashuv, peccherò ma poi farò teshuva. Cioè si avvia nel peccato appoggiandosi alla successiva teshuva. Sì, faccio tanto, lo so che faccio teshuva e va a finire. Esattamente. La Mishnah dice, una persona che ha questo tipo di atteggiamento, en maspikin biyado lasot teshuva, non gli si dà la possibilità di fare teshuva. Lo si ostacola, oppure non lo si aiuta, perché in effetti anche lui ha la possibilità di fare teshuva, però deve sforzarsi molto di più. Perché non ce la cavalà. Insomma, manca il presupposto fondamentale. Perché normalmente quando una persona è portata ad aprirsi verso Hashem, Kadosh Baruch Hu lo aiuta. In questo caso non lo aiuta, quindi deve fare tutto da solo. Quindi en maspikin biyado, nel senso non gli si dà l'aiuto in mano. Non che non lo può fare, però ci vorrà più impegno da parte sua. Più buona volontà, più fatica per rientrare nella teshuva. Perché sarà molto difficile per lui fare teshuva. In quanto si appoggia al peccato, alla teshuva stessa per peccare. No? È una contraddizione. È una grande contraddizione. Se la persona dicesse, Echetà, io peccherò, però veyom kippurim mechaper, poi tanto c'è Kippur che espia, en yom kippurim mechaper, il Kippur per quel tipo di peccato non ha l'effetto di espiazione. Cioè se lui pecca appoggiandosi al fatto che Kippur lo aiuta, il Kippur non lo aiuta. Certo. Questo è fatto proprio apposta, è peggio. Certo. Esattamente. Ora vediamo un altro aspetto. Averot che ben Adam la makom, per ciò che riguarda le trasgressioni tra uomo e Dio, una persona, per esempio Shabbat, una trasgressione tra uomo e Dio, Kasher, trasgressione tra uomo e Dio, se una persona trasgredisce queste cose, allora Yom HaKippurim Mechaper, quando la persona fa Teshuvah e arriva il giorno di Kippur, c'è una espiazione totale. Ok? Però le trasgressioni tra uomo e uomo, Averò, c'è ben Adam, la Haverò, se si tratta invece di trasgressioni tra uomo e uomo, cioè un non rispetto delle leggi civili, di furto, di causare danno, o anche svergognare, eccetera, eccetera, questo ha peccato contro una persona, non solamente contro Dio. Allora, en yom kippurim mechaper, il giorno di Kippur non costituisce un'espiazione, finché ad sheyeratze et chaverò, finché non si riappacifica con il prossimo. È tosta questa, lo sai. Perché? Perché noi veniamo davanti ad Akadosh Baruch Hu Kippur e diciamo, espia i miei peccati. Sì, sì, però quelli che hai fatto contro di me non c'è problema. Te li espio, ma quelli che hai fatto contro qualcun altro devi prima chiedere scusa a quel qualcun altro e poi posso espiartelo anche io. Secondo il principio generale, uno dice, beh, non puoi chiedere perdono a chi non hai, verso chi non hai, devi chiedere a chi hai colpito. Esatto, esatto. Tra virgolette. Come si dice, aiuta te prima e poi Dio ti aiuta. Esatto, contro chi hai peccato, da quello devi chiedere il perdono. Ora la Mishnah conclude con due derashot, che non sono halakha, che sono agadah, legate alla kapara e legate al Kippur e al ripurificarsi. E Zodarash Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria fece la seguente drasha riguardante il versetto Mikol chatotechem lifnei Hashem titaru. C'è scritto nel servizio di Kippur che attraverso la kapara, la teshuvah, le korbanot, eccetera, Mikol chatotechem, da tutte le vostre pecche, lifnei Hashem, dinanzi ad Hashem, sarete puri, titaru, diventerete puri. E lui però traduce questo versetto per fini di questa drasha in maniera diversa. Dice, averot ben adam lamakom, quello che abbiamo detto prima, se è un peccato lifnei Hashem, cioè davanti al Signore, nel senso è un peccato solo tra te e Dio, allora yom kippurim mechaper. Allora il giorno di Kippur espia, come abbiamo detto prima. Però avverò c'è ben Adam la chaverò en yom kippurim mechaper ad sheyeratzet chaverò. Ripete quello che abbiamo detto prima, ma lui lo appoggia a questo versetto. I vostri peccati, se sono dinanzi a Dio, allora lui li espia, ma se sono dinanzi a un altro uomo, dovete prima farvelo perdonare da quell'uomo. È la stessa sì, quello che stiamo aggiungendo è che lui lo fa come derashah su questo versetto. A questo versetto. E zo, questo insegnamento che abbiamo già detto, Darash Rabbi Elazar ben Azaria, lui la fece come Derashah legata al versetto Lifnei Hashem Titaru, i vostri peccati che sono dinanzi ad Hashem, che non è il senso letterale del versetto. Il senso letterale del versetto è: ora che siete dinanzi ad Hashem nel Kippur, nel Bet HaMikdash, sarete spiati da tutti i vostri peccati. Lui però mette l'enfasi, Mikol Chatotechem, i vostri peccati quali? Lifnei Hashem, quelli che sono dinanzi a Hashem, però quegli altri devono essere perdonati direttamente dagli interessati. Scanso di equivoci, non ti appoggiare a quel significato. Esattamente. Esattamente. Amar Rabbi Akiva, disse Rabbi Akiva, Ashrechem Israel, beati fortunati siete voi Israel, poiché lifnei mi atem mitaharin, dinanzi a chi vi rendete puri, umi, e chi è colui che metaheretchem, che vi rende puri. Avichem shebashamayim, non è altro che il vostro padre in cielo. Sheneemar, come detto nel profeta Yechezkel, vezarakti alechem maim tehorim utehartem, e io getterò su di, spruzzerò su di voi delle acque pure e, e sarete resi puri. Veomere, dice inoltre un altro profeta Yirmiyahu, mikve Israel Hashem. Il senso letterale del versetto è mikve come tikva, la speranza. La speranza di Israel non è altro che Hashem. Però Rabbi Akiva lo fa la derasha traducendolo in maniera non convenzionale, dicendo mikve proprio come il mikve che rende puro. Il mikve come raduno di acque. Ma mikve metaheret atemaim, così come il mikve rende puri gli impuri, afa kadosh baruch hu metaheret Israel, anche a kadosh baruch hu è come un mikve, per così dire, che rende puro Israel. E con questo conclude tutto il trattato di Yomà. Mazal Tov, se Dio vuole, la prossima lezione di Mishnah inizieremo un altro trattato che sarà il trattato di Pesachim. Trattato di Pesach, ve l'ho anticipato. Buona giornata a tutti quanti. Zach.